24. La storia. Dall'Iran al Guatemala, dal Congo al Cile, poi Cuba, il Vietnam, il Watergate. In una parola, la CIA, il più potente servizio segreto del mondo. Intrighi e misteri, errori e successi. Su tutto, il grande segreto di una storia scritta in punta di intelligence. Oggi a Mix 24 inizia il nostro viaggio negli intrighi della CIA. Tappa per tappa vogliamo ripercorrere la storia dell'agenzia dalla sua fondazione fino a oggi, e lo facciamo attraverso le parole degli stessi testimoni, agenti, capistazioni all'estero e direttori dell'agenzia che raccontano da dentro che cos'è la CIA. Il quartier generale della CIA si trova a Langley, in Virginia, alla periferia di Washington. La CIA si occupa di attività di controspionaggio all'estero, ma non può operare dentro i confini degli Stati Uniti. Il territorio americano è competenza esclusiva dell'FBI. Ma la CIA ben presto è andata molto al di là della sua missione. Negli anni è diventata l'unica agenzia governativa autorizzata a compiere operazioni segrete o addirittura sovversive al di fuori dei confini americani. Eppure, al momento della sua creazione doveva raccogliere, mettere in relazione, coordinare e analizzare le operazioni di intelligence, intervenendo solo quando gli sforzi diplomatici si dimostrassero inefficaci e l'azione militare non fosse un'opzione praticabile. Sentiamo cos'era la CIA secondo Robert Baer, ex agente dell'agenzia. La CIA è una tipica creatura della guerra fredda. Aveva una sola funzione e solo di quello doveva occuparsi. Doveva scoprire se, quando, dove e come l'Unione Sovietica avrebbe attaccato gli Stati Uniti. Solo questo. Fu creata subito dopo l'attacco di Pearl Harbor e la sua unica missione negli anni 50, 60 e 70 e fino a tutti gli anni 80 è stata quella di decifrare ed intercettare i piani di attacco eventualmente decisi al Politburo di Mosca. 1943. Il futuro capo della CIA, Allen Dulles, vola in Svizzera per stabilire dei contatti segreti con vari ufficiali nazisti. Ma già prima di questa data sono state intavolate delle relazioni con il generale Reinhard Gehlen, capo del servizio segreto di Hitler, con Otto von Bolschwing, braccio destro di Eichmann, e con Klaus Barbie, ufficiale tedesco. Alla fine del conflitto, la CIA utilizzerà tutti e tre questi criminali di guerra. Allen Dulles è anche il legale della Standard Oil Group, una delle compagnie che hanno continuato a fare affari con i nazisti durante la guerra. Un errore imperdonabile, secondo Robert Steele della sezione antiterrorismo della CIA. Credo si possa affermare che l'America, subito dopo la fine della guerra, ha portato al suo interno l'infezione del nazismo. È stato un duro prezzo da pagare e anche un errore imperdonabile. Un altro grave errore fu quello di ritenere legittimo interferire negli affari di altri stati o far cadere altri governi attraverso il finanziamento di gruppi da noi selezionati. 1953. All'apice della guerra fredda, Allen Dulles viene nominato direttore della CIA. Le operazioni segrete, quelle cosiddette speciali, subiscono un aumento esponenziale. Ascoltiamo ancora il commento di Robert Steele. La CIA ha svolto un numero enorme di operazioni segrete. In genere si optava per la segretezza perché nessun altro, oltre alla CIA, svolgeva questo genere di azioni. Non c'era nessun tipo di concorrenza. Maggio 1953, Iran. Allen Dulles lancia l'operazione Ajax, la prima di una lunga serie di colpi di Stato organizzati dalla CIA. A Teheran, il primo ministro Mossadegh ha da poco deciso di privatizzare la società anglo-iraniana Oil Company. Le autorità britanniche decretano l'embargo internazionale contro l'Iran che fa precipitare il paese nel caos. Le compagnie petrolifere britanniche e americane ritengono però questa misura insufficiente e lasciano l'Iran, spingendo il primo ministro inglese a chiedere l'aiuto del presidente Eisenhower per estromettere Mossadegh. Allen Dulles allora mette insieme un'operazione che allontani Mossadegh dall'Iran e riporti il giovane Shah al potere. Da quel momento a guidare l'Iran è lo Shah Reza Pahlavi. rimarrà al potere fino al 1979, quando anche lui sarà costretto all'esilio. Ma cosa c'era dietro quest'operazione? A raccontarlo è un ex agente della CIA, Robert Baer, e poi Richard Helms, direttore della CIA dal 69 al 73. Dietro all'operazione c'era la British Petroleum. Il primo ministro inglese chiamò Eisenhower e gli disse: c'è la possibilità che ci portino via tutti i pozzi petroliferi in Iran. Se voi non potete fare a meno dell'Arabia Saudita, noi non possiamo fare a meno dell'Iran. A quel punto gli americani intervennero. Il primo ministro inglese all'epoca era Macmillan. Fu lui a spingere perché Eisenhower, Allen Dulles e i servizi americani intervenissero. Secondo William Quant, del Consiglio della Sicurezza Nazionale, ci fu un preciso motivo che convinse Eisenhower ad intervenire. Ascoltiamolo. A convincere Eisenhower fu l'idea che Mossadegh stesse perdendo potere a vantaggio dell'Unione Sovietica. Insomma, in Iran si stava rischiando che si ripetesse quello che era successo in Cina. E Eisenhower non voleva passare certo alla storia come il presidente che aveva fatto arrivare i comunisti fino in Iran. La questione fu risolta in due parole. Mossadegh è un pessimo leader, è debole, pazzo, può facilmente divenire preda dei comunisti. Anche lo Shah è debole e non è in grado di fermare l'avanzata dei sovietici. Tocca a noi. Guatemala, giugno 1954. Il nuovo presidente del Guatemala, Jacopo Arbenz Guzman, decide di distribuire ai contadini più poveri alcuni appezzamenti di terreno della multinazionale americana United Fruit Company. Guzman istituisce anche una tassa sulle esportazioni. Il Guatemala è il maggior produttore di banane e frutti tropicali dei Caraibi. Per questo piccolo paese è l'unica risorsa economica. Ma di fatto tutti i suoi terreni sono nelle mani della United Fruit. Washington, luglio 1954. In un incontro tra il presidente Eisenhower, Allen Dulles, e suo fratello John Foster Dulles, capo del Dipartimento di Stato americano, viene deciso un colpo di Stato in Guatemala. I fratelli Dulles, una volta legali di fama a Wall Street, sono adesso a capo delle due organizzazioni più potenti d'America, il Ministero degli Esteri e la CIA. Allen Dulles è anche membro del consiglio di amministrazione della United Fruit. La CIA dunque esautora Arbenz Guzman e consegna il potere nelle mani di una giunta militare guidata dal generale Castillo Armas. La sua prima mossa è sospendere il programma di riforma agraria che mette in pericolo gli interessi della United Fruit Company e degli Stati Uniti. Col racconto delle trame della CIA ripartiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Stiamo ricostruendo il ruolo che la CIA ha avuto nella storia mondiale, intervenendo nelle sorti di diversi paesi. Una fra questi è il Congo. Nel giugno del 1960 il Congo conquista l'indipendenza dal Belgio. Il leader di sinistra, Lumumba, diventa primo ministro. Agli Stati Uniti interessano molto le vaste risorse minerarie del paese. Sentiamo la testimonianza di alcuni dei funzionari della CIA impegnati in questa operazione in Congo. Ci fu un incontro, mi pare che fu il 18 agosto del 1960. Eisenhower disse chiaramente che bisognava liberarsi al più presto di Lumumba. Nell'ambasciata americana sostenni che sarebbe bastato estromettere Lumumba dal suo incarico di primo ministro. Allen Dulles, invece, interpretò le parole di Eisenhower in modo del tutto personale. Dulles ritenne di aver avuto carta bianca per intraprendere un complotto contro Lumumba. Ci furono date delle istruzioni su come far fuori Lumumba. Il suo dentifricio venne avvelenato e poi consegnato al capo della stazione della CIA, Larry Dublin, che però rifiutò l'incarico. I nostri funzionari non vollero avere nulla a che fare con l'assassinio di Lumumba. Io insistevo per cercare una soluzione politica, ma fu tutto inutile. A Washington si pensava che sarebbero state più appropriate misure più drastiche. Allen Dulles ordina l'assassinio di Lumumba. Da un'inchiesta pubblicata nel 1975 risulterà che il presidente Eisenhower aveva dato il suo assenso all'operazione. Il generale Mobutu, salito al potere, uccide Lumumba con un colpo in testa e lo fa immergere in una botte piena di acido. Frank Carlucci, che in seguito diverrà vice direttore della CIA nonché ministro della difesa, viene inviato in Congo durante il colpo di Stato. Questa è la sua testimonianza, seguita dalla ricostruzione di William Blum del Dipartimento di Stato e poi di Milton Burden, capo di una stazione della CIA negli anni Ottanta. Mi accusarono di essere il responsabile dell'assassinio di Lumumba. Assurdo. Come si può pensare che un semplice funzionario di ambasciata avesse il potere di ordinare l'omicidio di un primo ministro? Lumumba fuggì dalla prigione cercando di nascondersi. La CIA si offrì di aiutarlo. In realtà lo consegnò nelle mani dei suoi nemici, che lo uccisero. Il problema fu che molti della CIA cominciarono a prendersi sul serio e a credere di essere invincibili. In questo senso Castro gli sembrò una pratica da spiegare facilmente. Dal Congo a Cuba, aprile 1961, dopo aver cacciato dal paese il dittatore Battista, Fidel Castro nazionalizza le piantagioni di canna da zucchero di proprietà di alcune compagnie americane. Gli Stati Uniti bloccano tutti i fondi destinati a Cuba e interrompono le relazioni diplomatiche. Cuba stabilisce allora un accordo commerciale con l'Unione Sovietica. Castro, insomma, sfida Washington corteggiando il leader sovietico Nikita Khrushchev. Un modello troppo pericoloso, secondo William Blum, del Dipartimento di Stato americano. Era un modello pericoloso per tutta l'America Latina. Una piccola isola che osava sfidare gli Stati Uniti, praticamente estromettendoli da ogni accordo. Fu un colpo durissimo. E tutti noi, rivoluzionari e patrioti, conquisteremo il nostro futuro e giungeremo alla vittoria. 21 gennaio 1961, il giorno in cui John Kennedy riceve il potere dalle mani di Eisenhower, trova sulla sua scrivania anche un dossier denominato Baia dei Porci. È la base per un complotto messo a punto da Allen Dulles e Richard Nixon. Kennedy ha ereditato un piano della CIA per invadere Cuba e liberarsi di Castro attraverso uno sbarco nella Baia dei Porci. La CIA invia 1500 esuli cubani senza alcuna esperienza. È un disastro totale. In questo modo, Dulles spera di convincere Kennedy della necessità di sostenere l'invasione con le forze aeree americane. Ma il giovane presidente rifiuta e l'operazione fallisce. La CIA scarica su Kennedy tutta la colpa del fallimento della missione. Ascoltiamo il commento di Richard Helms, direttore della CIA, e poi di un ex agente della CIA, Samuel Halpern. Quell'operazione fu un fallimento perché fu gestita malissimo. Io credo che Kennedy abbia approvato il piano perché al momento non c'era niente di meglio. Gli sembrò l'unica strada percorribile. Fu completamente sottovalutata l'enorme popolarità di cui Castro godeva a quel tempo. La CIA aveva detto che il piano avrebbe avuto successo solo se gli Stati Uniti avessero accettato di appoggiare militarmente la rivolta. All'ultimo momento, però, l'amministrazione decise di non inviare aiuti militari e l'intera operazione fallì. Dopo l'insediamento alla Casa Bianca, John Kennedy e il fratello Robert danno alla CIA pieno mandato per sbarazzarsi di Fidel Castro. Sam Halpern viene nominato responsabile per la cosiddetta Operazione Mangusta. Tra il fallimento dello sbarco alla Baia dei Porci nel 61 e l'assassinio di John Kennedy due anni più tardi, Castro scamperà ben 8 volte ai tentativi di omicidio, tutti ad opera della CIA. Kennedy chiese quali fossero le possibili soluzioni alla crisi cubana. I capi di Stato Maggiore gli proposero di far uccidere alcuni americani sul suolo statunitense e di attribuire questi omicidi ad un ordine di Castro. In questo modo l'America avrebbe potuto dichiarare guerra a Cuba. Kennedy rifiutò immediatamente. Ci furono molti tentativi di far fuori Castro. Addirittura si pensò di far esplodere il suo sigaro. L'intera storia della Baia dei Porci creò non pochi malumori dentro la CIA. Ci sentivamo responsabili per quello che era successo e sapevamo che stava montando una certa irritazione nei confronti del presidente. La CIA odiava Kennedy perché lo considerava irresponsabile del fallimento e perché non aveva inviato forze aeree in sostegno ai rivoltosi. Ma John Kennedy ha molte difficoltà a tenere a bada Dulles e la CIA, divenuta oramai uno stato nello stato. Ad ogni tentativo fallito di risolvere il problema di Castro, aumenta l'intrattabilità di Dulles, che si fa addirittura portavoce di una campagna anti-Kennedy, incolpato di tutti i fallimenti della politica estera americana dalla Baia dei Porci in poi. Il segretario di Stato americano Alexander Haig racconta del tentativo compiuto da Kennedy di sostituire i vertici dell'agenzia. Ascoltiamolo. Kennedy decise di rimuovere gli uomini della CIA e rimpiazzarli con uomini più vicini alle sue idee politiche. E per compiere questa operazione scelse Bob McNamara. Da parte di Kennedy fu una decisione irrevocabile. Io c'ero e posso dirlo con chiarezza. John Kennedy decide di ridurre il potere della CIA e di liberarsi del suo potente direttore Allen Dulles. Il nuovo capo della CIA nominato da Kennedy è un uomo tanto discreto quanto efficiente. È John McCone. Allen è furibondo. È stato capo dell'agenzia per 10 anni. La CIA è una sua creatura. Per lui è un licenziamento in tronco. Dallas, 24 novembre del 63, il giorno dopo l'assassinio di John Kennedy. Il fratello Bob si precipita dal direttore della CIA, McCone, con una sola domanda: è stata la CIA a uccidere mio fratello? Il nuovo presidente Lyndon Johnson affida alla commissione Warren il compito di scoprire chi fosse dietro l'assassinio di Kennedy. Per ironia della sorte, l'inchiesta finisce nelle mani di Allen Dulles, che odia Kennedy e che proprio da lui è stato rimosso dall'incarico. Ad assisterlo nell'inchiesta è Charles Campbell, vice di Dulles alla CIA e fratello del sindaco di Dulles. Alcuni mesi più tardi, alla presenza dello stesso presidente Johnson, il giudice Warren leggerà la relazione finale della commissione. Non c'è stato alcun complotto. Lì Harvey Oswald ha agito da solo. Sentiamo il commento di William Blum del Dipartimento di Stato americano e poi di agenti della CIA. Allen Dulles fece di tutto per sabotare il lavoro della commissione Warren. Se si vuole tenere segreta una notizia, credo che per chi è responsabile dell'inchiesta sia piuttosto facile nasconderla. Per quanto mi riguarda, diedi istruzione alla CIA di rendere tutte le informazioni disponibili. La CIA, si può dire, studiò ogni singolo documento riguardante l'assassinio di Kennedy, ma alla fine non risultò nessun elemento che facesse pensare a una cospirazione, tantomeno a un coinvolgimento della CIA. Non riesco neanche lontanamente a immaginare la CIA coinvolta nell'uccisione di un presidente. È qualcosa che supera qualunque immaginazione. Quando arrivai alla CIA, mi capitò una cosa estremamente interessante. Venni a sapere di un francese che sosteneva di sapere tutto riguardo all'assassinio di Kennedy. Questo francese forniva moltissimi dettagli, molto precisi. La cosa ovviamente mi incuriosì molto e perciò decisi di provare a leggere quel documento. Ma quando chiesi il permesso di accedere a queste carte, mi fu risposto che era materiale estremamente riservato, era stato segretato, nessuno doveva leggerlo. Allora aspettai fino al sabato successivo. Quel sabato ero in servizio e feci richiesta formale di ottenere quel documento. Solo il direttore delle operazioni ed il direttore della CIA potevano leggerlo. Perciò fui costretto a chiedere il permesso a uno dei due. Il direttore non poté ricevermi, allora mi rivolsi al direttore delle operazioni. Gli misi la richiesta sul tavolo e lui firmò senza pensarci tanto. Si trattava di 12 volumi, tutti sull'omicidio Kennedy. Dopo un po' la richiesta mi tornò indietro. Sopra c'era scritto: ci dispiace per il disguido, ma il documento è andato perduto, scomparso. Mesi dopo l'omicidio di Dulles, il presidente americano Lyndon Johnson comincia a prendere in esame il progetto di Kennedy di ritirare i consiglieri militari dal Vietnam. In piena campagna elettorale, Kennedy avrebbe detto a un generale impaziente: Fatemi leggere e poi avrete la vostra dannata guerra. Avevamo tutti forti dubbi sull'opportunità di un coinvolgimento totale degli Stati Uniti in Vietnam. Sapevamo che non sarebbe stato facile sconfiggere una guerriglia così motivata come quella dei nordvietnamiti. Agosto del 64, Vietnam. La CIA diffonde la notizia di un attacco nordvietnamita contro la nave militare americana nel Golfo del Tonchino. Ma la notizia è falsa. Ma è quello che serve al presidente Johnson, il pretesto per aumentare il numero di soldati americani nel sud-est asiatico e iniziare a bombardare il Vietnam del Nord. Sentiamo le parole dello stesso presidente pronunciate nell'agosto del 64. Il cacciatore pediniere statunitense Maddox è stato attaccato al largo del Golfo del Tonchino. Si è trattato di un attacco premeditato e non provocato. Questo oltraggio non farà che raddoppiare la determinazione di tutti gli americani nel compiere il proprio dovere e sostenere la popolazione e il governo del Vietnam del Sud. Oggi si sa che quella del Tonchino fu una menzogna. Fin dall'inizio, l'intera vicenda era sembrata strana a molti. Successivamente, però, tutti i sospetti furono confermati. Si trattò solo di un meschino pretesto, di un trucco. Era la voce di William Blum, del Dipartimento di Stato americano, con la storia della CIA. Riprendiamo subito dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. L'azione dell'agenzia di spionaggio americana arriva fino in Vietnam, dove nel 64 ha inizio l'operazione Phoenix. Alla CIA viene ordinato di eseguire una serie di omicidi contro obiettivi civili per paralizzare il paese. Gli esperti della CIA istituiscono allora delle squadre speciali con il compito di terrorizzare la popolazione, uccidendo insegnanti, medici, uomini d'affari. Ogni omicidio viene siglato. A ogni colpo messo a segno dalle squadre della morte viene lasciato sul corpo della vittima una carta da gioco, l'asso di picche. Prima di essere uccise, le vittime vengono sistematicamente torturate. Alcuni anni più tardi, William Colby, funzionario a capo dell'operazione Phoenix, diventerà il direttore della CIA. Facevano fuori tutti coloro che erano sospettati di avere dei rapporti con i Vietcong. Non sto parlando di soldati, ma anche di semplici civili. Fu un vero massacro. Dei villaggi pacifici furono considerati aree strategiche. Si trattava di una politica ben definita, di una serie di mosse per giustificare l'escalation. Lyndon Johnson in Vietnam si è scavato la fossa. Nel giro di 4 anni, gli americani di stanza in Vietnam passano da circa 20.000 a 540.000. Un ex funzionario del Pentagono fornisce al New York Times alcune informazioni confidenziali sul coinvolgimento americano in Vietnam e sulle bugie dell'amministrazione Johnson. Luglio 1968, dal Vietnam a San Francisco, il presidente Lyndon Johnson vara la cosiddetta Operazione Chaos, poi ampliata dal suo successore alla Casa Bianca, Richard Nixon. L'obiettivo è colpire membri della sinistra, elementi sovversivi, sospettati di essere manipolati dalle potenze straniere. Da anni i servizi segreti americani sorvegliano migliaia di cittadini e intercettano i loro telefoni. Si tratta di insegnanti, studenti, giornalisti, esponenti politici. Alcune unità speciali si introducono illegalmente nei loro appartamenti, negli edifici dove lavorano, leggono la loro posta. Ecco quali erano gli obiettivi dell'operazione Chaos, secondo i giornalisti Joseph Trento e Jim Hoagland. Sostanzialmente l'operazione Chaos si occupava di stroncare sul nascere ogni forma di protesta, ogni forma di opposizione alla politica della Casa Bianca. La pratica di controllare cittadini americani, per quanto possa sembrare quanto di più lontano esiste dalla mentalità statunitense, fu istituita e difesa da Hoover, Van Damon e Nixon. Gli obiettivi principali erano i movimenti pacifisti e i giornalisti che erano contro il governo. Alcuni di loro furono addirittura messi sotto controllo. Avete ascoltato la voce di Milton Burden, capo di una stazione della CIA negli anni Ottanta. 17 giugno 1972. In piena campagna elettorale, 5 uomini travestiti da idraulici vengono arrestati negli uffici del Watergate. Sono ex agenti della CIA inviati da Nixon nella sede del Partito Democratico per trafugare documenti. Il portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che si tratta di furto con scasso e che l'incidente non ha nulla a che fare con il presidente. 4 degli uomini arrestati sono cubani in esilio. Il quinto, James McCall, è invece un ex agente dell'FBI e della CIA, impiegato nel servizio di sicurezza del Partito Repubblicano e del Comitato per la rielezione del presidente Nixon. A quel punto cominciarono a trapelare notizie riguardo ad un legame tra la CIA e l'affare del Watergate. Alcuni degli uomini implicati erano ex agenti della CIA in pensione. Sono rimasto sconvolto nell'apprendere che tra coloro che hanno compiuto questa azione illegale sembra ci siano anche impiegati del Comitato per la rielezione. Queste le parole del presidente Nixon nel suo discorso del 30 aprile 1973. Convinto che lo scandalo del Watergate verrà insabbiato, Nixon si concentra allora sulla campagna per la sua rielezione, dove i sondaggi lo danno per favorito. Ma due giornalisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, lo tengono in pugno. Nixon allora chiede al capo della CIA, Richard Helms, di spingere l'FBI a lasciar perdere le indagini, dichiarando che il furto di documenti al Watergate è stata un'iniziativa della CIA. Helms, però, rifiuta. Sentiamo la sua stessa testimonianza. Voleva che la CIA producesse un documento per scagionarlo, ma io gli dissi che non ne volevo sapere nulla. Helms, uno dei peggiori direttori della CIA, è stato anche uno dei più amati. I suoi lo adoravano. Lo chiamavano l'impermeabile, perché qualunque accusa gli scivolava addosso, tranne quella sul Cile. Cile, settembre 1970. Il leader socialista Salvatore Allende vince le elezioni presidenziali. Per Richard Nixon è troppo. Terrorizzato dall'esito del voto in Cile, dà disposizione al direttore della CIA, Richard Helms, di entrare in azione per fermare Allende. Sentiamo la sua stessa testimonianza e poi quella di Samuel Halpern, ex agente della CIA. Questa è una tipica montatura giornalistica, carta bianca. Si diceva che Nixon ci avesse dato carta bianca. Ma che vuol dire carta bianca? Allende era convinto che Nixon ci avesse ordinato di non farlo arrivare alla presidenza. Nessuno parlò mai di uccidere Allende. L'intenzione era solo di non fargli governare il paese. Ma la CIA era in contatto con quelli che avevano deciso di fare fuori Allende. Utilizzarono alcune multinazionali, la CIA, l'esercito, l'ambasciata. Insomma, tutto ciò che potevano usare pur di rovesciare Allende. Facemmo del nostro meglio. Washington decide allora di intervenire in aiuto degli ufficiali cileni per rovesciare Salvatore Allende e far salire al potere il generale Pinochet. L'11 settembre del 73, con un colpo di Stato, i militari cileni prendono il potere. Salvatore Allende si suicida. Migliaia di cileni vengono torturati e uccisi sulla base di elenchi stilati dalla stessa CIA. Neanche le persone con l'esperienza più lunga nella CIA, agenti che ci hanno lavorato per 20, 30 anni, sono in grado di dire con chiarezza quante siano state le operazioni segrete o gli omicidi eseguiti dall'agenzia. Il Congresso degli Stati Uniti non si è ancora ripreso dalle bugie di Nixon. E quando alle rivelazioni dei legami tra la CIA e la Casa Bianca nel caso Watergate si aggiungono anche quelle sul ruolo svolto dalla CIA in Cile, il Congresso decide di limitare i poteri dell'agenzia. Nascono le commissioni senatoriali Church e Pike. Nel 76 alcuni candidati per l'incarico di direttore della CIA depongono di fronte alle commissioni. Le loro dichiarazioni sono sconvolgenti. Dopo di allora niente sarà più come prima. La relazione finale della commissione Church descrive nei minimi dettagli il sostegno fornito dalla CIA al generale Pinochet e il ruolo degli Stati Uniti nel rovesciamento di Allende. L'immagine pubblica del segretario di Stato Kissinger ne esce gravemente compromessa. Così lo stesso Kissinger dichiara alla commissione Church nel 75. Gli Stati Uniti non hanno mai pianificato di destabilizzare o sovvertire il governo di Allende. Al contrario, noi volevamo salvaguardare quei partiti che avevano contestato la validità delle elezioni. A interessarci erano le elezioni che ci sarebbero state nel 1976, non il colpo di Stato del 73. Noi del golpe non sapevamo nulla. Henry Kissinger naturalmente non fu entusiasta delle relazioni delle commissioni Church e Pike. Kissinger fu estremamente criticato per quanto aveva detto e fatto. Non c'è mai stata una politica per assassinare figure istituzionali straniere. Il 22 ottobre del 75 la commissione Church chiama a deporre l'ex direttore Richard Helms. Helms non ha mai parlato in pubblico. Durante la sua deposizione rischia più volte un'incriminazione per falsa testimonianza. Prima di lasciare la CIA, Helms, che ha ordinato centinaia di intercettazioni telefoniche illegali, avrà tutto il tempo di distruggere le prove. Sentiamo le sue stesse parole nella deposizione alla commissione Church del 75. Signor Helms, cerchiamo di fare chiarezza. Lei ha detto di aver informato il ministro delle poste di quell'operazione. Sì, o almeno pensavo di sì. Forse però non fui sufficientemente chiaro. Mi sembrava implicito che se si vogliono trarre delle informazioni da una lettera, bisogna aprirla, quella lettera. Signor Helms, quindi la CIA è un'agenzia governativa che non rispetta le leggi? Cerchiamo di fare il nostro lavoro. Vogliamo proteggere il nostro governo e il nostro stile di vita. Mi sto sforzando di capire perché questo tipo di programma sia andato avanti per 20 anni. Ha infranto le leggi degli Stati Uniti in ogni senso. Statuti, Costituzione, delibere della Corte Suprema. Questo programma ha fornito preziose informazioni sui legami tra dissidenti e terroristi stranieri. Vorrei sapere da lei se ritiene che la CIA non debba necessariamente sottostare alle leggi solo perché le questioni di cui si occupa sono di grave importanza. Credo che la mia posizione, signor Presidente, è non pensare che le cose siano tutte bianche o tutte nere. Ma lei era cosciente che stava rischiando di commettere una illegalità? Sì. E nonostante ciò ha perseverato nel suo programma. Quella dichiarazione secondo cui le operazioni segrete erano state sospese non era vera. La posta ha continuato a essere aperta. Qual è il controllo esercitato dal Presidente degli Stati Uniti sulla CIA o su altre agenzie governative? A questo punto vorrei farle io una domanda. Lo sapeva che Nixon non immaginava neanche che la posta venisse intercettata? Ammesso che lo sapesse, non c'è stato nessuno, a cominciare da lei, che ce l'abbia confermato. Al presidente fu consegnato un documento in cui non si diceva la verità. Lo chieda direttamente al presidente Nixon, se era o no al corrente delle intercettazioni. Se lei fosse stato il presidente degli Stati Uniti e le fossero giunte raccomandazioni e suggerimenti attraverso un rapporto firmato dal direttore della CIA, che cosa avrebbe pensato? Signor Presidente, non posso fare a meno di ammettere che da quello che risulta sembra proprio che io abbia commesso un grave errore di cui non posso che scusarmi. Con la storia della CIA torniamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, la commissione senatoriale Church, nata per esaminare alcune operazioni legate all'attività della CIA, chiama a deporre anche un altro ex direttore della CIA, William Colby. Le prime domande sono sul colpo di Stato in Cile. Sentiamo la sua testimonianza. L'agenzia produce soldi, stampa soldi. Ad esempio, l'ITT offrì soldi alla CIA per destabilizzare il Cile. Noi possiamo disporre solo di soldi puliti. Tuttavia, durante operazioni segrete, ci possiamo rivolgere ad organizzazioni per reperire fondi. Il signor McCone aveva rapporti molto stretti con la CIA. Non mi sembra una domanda assurda. Le operazioni segrete di questo tipo sono note da anni e nessuno ha mai avuto obiezioni. Le sono mai state fornite informazioni relative a contatti tra la CIA e la mafia? Se sì, quando e con chi? Colby fu il primo a capire che la commissione Church faceva sul serio. Per questo scelse la trasparenza. Colby cambiò una volta per tutte il modo di governare la CIA. Messo alle corde dalle varie commissioni, Colby accetta di parlare del Vietnam e dell'operazione Phoenix. L'operazione Phoenix era stata progettata al solo scopo di uccidere, è così? Può darci un'idea su quante persone furono eliminate? Direi almeno 20.000. Se vi andate a rileggere la relazione finale della commissione Church, vi renderete conto che tutto ciò che faceva la CIA era stato deciso alla Casa Bianca. Gli stessi tentativi di uccidere Lumumba o la Baia dei Porci. Insomma, in tutte le azioni della CIA c'è sempre lo zampino della politica. Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera. Oggi, in un mondo così complicato, com'è cambiato il ruolo della CIA? Finita la Guerra Fredda è emerso il terrorismo internazionale su scala globale, no? Il jihadismo, chiamiamo così, o il qaedismo. E l'agenzia si è dovuta trasformare perché ha dovuto ricollocare, riformare i suoi agenti per fronteggiare un avversario che c'è e non c'è. Nel senso che mentre quando cioè più difficile da combattere. Certo, più difficile da combattere perché? Perché mentre il KGB, è vero, le spie agiscono in incognito, però aveva il suo capo a Washington piuttosto che a Londra e quindi alcuni personaggi, erano identificabili. Il terrorista qaedista era più complicato da trovare, da individuare. Molto spesso insospettabile. È vero che i russi avevano sviluppato i cosiddetti legali, illegali, no? Ossia quegli agenti russi che vivevano da americani perché sembravano americani e molto spesso sono cresciuti in America, ma insomma erano pochi episodi. Il terrorismo qaedista era molto più ampio e, ripeto, su scala globale, quindi la difficoltà di ricalibrare l'agenzia, soprattutto tenendo conto che si tratta di un'agenzia gigantesca, un elefante, e l'elefante deve muoversi in spazi ristretti, sia pure globali. Ma con le nuove tecnologie di oggi c'è sempre bisogno degli agenti sul territorio? La tecnologia è cresciuta, però poi nuovamente per la necessità di confrontarsi con realtà che sono tecnologicamente non così sviluppate o non sempre sviluppate, ossia il terrorismo jihadista, e si è capito che non è che schiacci il pulsante sul computer e hai una risposta, non tutto è catalogabile. La forma mentis americana è sempre molto schematica, no? 1, 2, 3, 4, tutte caselle, poi c'è il super specialista di quel singolo gruppo. Il problema è che oggi bisogna parlarsi, bisogna incrociare i dati, bisogna avere un'interconnessione e soprattutto vedere. Ed ecco che si è resi conto che la tecnologia serve ma non basta, e quindi si è cercato nuovamente di investire sull'uomo, ma è complicato perché l'uomo deve andare in aree che spesso non sono accessibili, tipo il Pakistan, no? O certe aree dello Yemen. Quando parliamo di tecnologie, di che parliamo, di che tipo? Allora, le tecnologie sono essenzialmente diverse. Allora, la prima è quella satellitare, ossia con i satelliti, oggi i satelliti hanno un grado di affidabilità, riescono a vedere cose minuscole in luoghi impossibili. Il secondo elemento sono soprattutto, e questo è importante, gli apparati per le intercettazioni. Dico intercettazioni, un termine molto ampio. Intercettazioni non mi riferisco soltanto ai telefoni o alle email, che lo sappiamo tutti, no? Con quello che è uscito in questi due anni con la storia della NSA, sono delle tecnologie che possono piazzare microspie quasi invisibili in posti impensabili, sono sistemi che hanno, che so, delle batterie che durano per lunghi periodi, perché io posso piazzare anche una microspia, ma poi alcune hanno bisogno di una batteria, di un'alimentazione, e quindi devo avere le batterie adeguate. Sono piccoli dettagli questi, ma che cambiano. Ovviamente sì. Poi hanno risorse, un budget, come dicevo, che permette di comprare, acquisire materiale che altri paesi non si possono permettere. Grazie Guido Limpio, e ci sentiamo domani per una seconda puntata sulla storia della CIA.